il viaggio, che non è di certo, come dire, si chiama trip quello, ma il trip è la vita, quindi inizia prima e finisce dopo. E quella potrebbe essere definita come un'esperienza, come dire, catalizzante di più informazioni di quelle che riceviamo del solito, secondo la nostra mente, che è programmata su certe frequenze, certe onde, certi programmi, certi pattern, che ci portano a vivere il mondo come quello che è, no? E Andrea invece è una persona che appunto sperimenta moltissimo con questo dono della natura, e quindi siamo fortunati ad averlo qua, possiamo sfruttarlo per questa sera, detto, e chiedergli quello che vogliamo. Per cui, se qualcuno già ha domande e vogliamo partire subito con un back to back, non sarebbe male. Altrimenti chiediamo ad Andrea se ha qualcosa da dire in seguito a questo documentario, oppure mi invento una domanda. Ma io avevo una domanda. Mi ha colpito molto questa cosa che dicevano, che lo studio della John Hopkins aveva dato dei buoni risultati, ma anche persone che avevano avuto paure, yes, eccetera, mentre in questa esperienza sembrava si fosse creato un certo tipo di campo che aveva dato poi un risultato molto positivo a tutti. E quindi mi chiedevo quanto è importante il setting, il campo, il gruppo, e come mai a volte non so quanto venga considerato a volte poi questo genere di studi. Sì, posso riportare a conferma di questo l'esperienza. Tra l'altro c'è anche un partecipante dell'anno scorso che è venuto su in Olanda, in questo posto, che ha delle analogie a quello che abbiamo visto, proprio un posto nato proprio per permettere di fare esperienza con i funghi. E la cosa comune a tutti i partecipanti, alcuni con una piccola esperienza, molti senza nessuna esperienza, è stata che nessuno ha avuto mai paura, neanche per un momento, e questo era assolutamente riportato anche da loro. E quindi posso confermare che la situazione in cui ti trovi, le persone con cui sei, sono fondamentali, perché non entri nell'esperienza psichedelica con la tua testa. Anzi, i funghi hanno inizialmente, quando comincia a salire l'effetto, lo scopo di smontare proprio il funzionamento della mente razionale. E quindi non è su quella che puoi contare, ma è sulla parte emotiva, sull'inconscio, che con il quale puoi interagire usando immagini ed emozioni. E credo che abbiate ancora tutti gli occhi pieni delle immagini di questo posto spettacolare, immerso nella natura e con tanti contenuti simbolici, immagini molto forti per tutti i partecipanti. E lo stesso è avvenuto anche su in Olanda. E credo che sia fondamentale prepararsi intenzionalmente in un ambiente che possa sostenerti, soprattutto dal punto di vista emotivo. E quindi l'importanza del set and setting io la espanderei anche all'utilizzo intenzionale di elementi che possano esserti utili durante l'esperienza, sia per ricordarti magari una intenzione, che puoi avere un obiettivo di lavoro, come ce l'avevano anche quelli che hanno organizzato questa sessione, ma anche per trovare conforto in un momento magari di difficoltà. Ne ho fatto esperienza diretta anch'io di trovarmi in un momento di particolare intensità, difficile da gestire, ed essere di fronte al mio altare con l'immagine di un mio insegnante di riferimento spirituale è stata l'unica cosa che mi ha dato sostegno concreto in quel momento. Ecco, quindi se tutto va bene, tutto è perfetto, è bellissimo, ovviamente non serve nulla, ma nel momento in cui uno si ritrova in difficoltà, ed è la cosa che può essere più temuta di un'esperienza psichedelica, avere un punto di riferimento che abbia dei contenuti significativi per chi sta facendo l'esperienza è fondamentale. Infatti invito sempre, quando si fanno dei lavori con i funghi, sia andando su in Olanda per esempio, ma anche in altri contesti, di preparare un altare su cui ciascuno possa mettere delle cose che siano significative per lui, ma non perché c'è una credenza religiosa, o assolutamente è un modo per ricordare a livello interiore, emotivamente, l'inconscio, un qualcosa che sia importante, significativo, perché a quello vai nel momento in cui ti trovi in un passaggio difficile. E quindi questo è un po' la conferma che quel posto così bello, così suggestivo, con questo tipo anche di preparazione, arrivavano da 4 giorni intensivi di meditazione, sicuramente, ecco, tutte queste cose sono a sostenere l'importanza della preparazione. La preparazione la fai lavorando su di te, perché tanto sei tu che entri dentro l'esperienza. L'esperienza psichedelica è proprio letteralmente un tuffo dentro te stesso. È così la vita in genere, sono convinto, però nell'esperienza psichedelica questo è tutto amplificato e diventa, come posso dire, molto più evidente. E questo renderlo più evidente è una grande risorsa, secondo me, per chiunque si renda conto che quello che sta vedendo, quello che sta vivendo, è semplicemente il frutto della sua testa, come veniva anche giustamente riportato da Vania. Due cose mi vengono in mente. Una, se puoi dire magari a titolo informativo qual era il setting ideale secondo Terence McKenna, che può essere magari visto un po' come punto di riferimento di Mastership, così in qualche modo, perché perlomeno lui ha tracciato una linea in qualche modo. E l'altra invece, che a me è molto interessato, vabbè che poi era un esperimento, quindi necessariamente implicava il fatto che per ogni partecipante venisse data la stessa quantità, no? Quindi invece che utilizzare la psilocibina organica proveniente dai funghi, effettivamente hanno utilizzato psilocibina sintetica. Quindi diciamo un po', magari, se puoi dire un micro, non so, un differenziale che ci può essere rispetto, non so, all'assunzione di psilocibina sintetica invece magari di fitocomposto, tutto quello che c'è invece magari nel fungo, che effettivamente se ne può dosare il peso, però poi non si sa a livello proprio di principio attivo quanto. Sì, l'uso di un composto di sintesi che Maria Sabina aveva confermato possedere lo spirito del fungo è utile per, come posso dire, avere la certezza della quantità, che non si può avere con i funghi che sono naturali, e quindi possono esserci delle variazioni ovviamente normali, ma e soprattutto rendono anche più veloce l'assorbimento, quindi diminuire la fase iniziale, che è quella più critica, che può dare nausea, fastidio, comunque in qualche maniera impressionare i più suggestionabili, e quindi in questo senso non vedo un pregiudizio nell'utilizzo di una sostanza di sintesi. E invece, arrivando a Terence McKenna, che aveva un setting, non so quanti lo conoscano, ma era stomaco vuoto, in silenzio, al buio, 5 grammi secchi di funghi. Lui poi ci aggiungeva anche come optional delle robuste quantità di cannabis. Sopra. Sì, assolutamente. Sì, abbondantemente. Quindi era sicuramente un'esperienza da vichinghi. Sì, ma ha senso solo per chi ha già esperienza. Ma anche chi ha già esperienza non è detto che. Sì, però se non hai esperienza può essere devastante. Anche se non hai esperienza. Sì. Ma perché al buio? Nel caso specifico non abbiamo avuto delle esperienze, ci ha aumentato in maniera esponenziale l'oggetto del fungo. A me è capitato dopo mesi che ho preso il fungo di fumare della marijuana particolarmente, mi ha tirato fuori il fungo. Sì, sì. Sì. Fuori. Sì, perché non è più una questione di emivita, come posso dire, tempo durante il quale la sostanza rimane nel corpo, è letteralmente una informazione che tu puoi richiamare in qualche modo, è come se tu fossi l'avessi memorizzata. Sì, sì, sono d'accordo. Però ecco, il setting di Terence McKenna è una situazione estrema a cui arrivi attraverso una preparazione, e la preparazione secondo me richiede di avere delle informazioni di base su cui ti confronti prima di tutto a livello fisico, quindi la sostanza, come va assunta, le quantità, capire la sensibilità, è proprio una progressione. La musica in una fase iniziale serve tanto, tanto, perché è una sorta di struttura. Questo è una costante, ad esempio, dell'esperienza con l'ayahuasca, perché c'è lo sciamano che canta gli Icaros, comunque c'è sempre una base musicale che in qualche maniera tiene agganciata la persona a un qualcosa che sia visibile come un riferimento. Nella stessa maniera con le esperienze con i funghi, raccomando, per chi ha poca esperienza, la musica. Musica selezionata allo scopo, non qualsiasi cosa, perché certe cose potrebbero probabilmente mettere anche in condizioni peggiori in realtà. Poi io sono dell'idea che la condizione ideale, quindi andando ancora oltre Terence McKenna, è trovare un posto nella natura, e in questo senso gli amici olandesi hanno visto lungo. Allora, il clima olandese è quanto di peggio io possa conoscere, nel senso che è talmente ingestibile e imprevedibile che non è pensabile di organizzare delle esperienze all'aperto senza rischiare che ti arrivi l'acquazzone o peggio in qualsiasi momento. L'Italia da questo punto di vista ha un meteo molto più felice, e quindi noi avremmo già Nature Temple dappertutto. Basterebbe veramente trovare un posto in natura che sia bello, così come sono belle le ambientazioni di questo film, e trovare un bell'albero a cui ci si possa avvicinare, chiedendo, entrando in qualche modo in sintonia, chiedendo di essere accolti, e prendere i funghi, sdraiarsi su un telo e stare lì e basta. Quello secondo me è la forma di esperienza da cui puoi tirar fuori il meglio, perché la caratteristica dei funghi, e tante riprese lo hanno mostrato, è questa, sono questi filamenti che collegano le piante, sono un network di connessione. E quindi il messaggio del micelio in qualche modo è che l'uomo può, attraverso l'uso dei funghi, riconnettersi. È una riconnessione dentro ed è una connessione fuori. E quante volte nel silenzio, perché quando si fa l'esperienza nella natura non serve la musica, i rumori che senti fuori, che siano le foglie, gli insetti, gli uccellini, quante volte li ho sentiti prima dentro e li ho sentiti poi fuori, proprio come una evidenza che non c'è separazione. E il cervello che è stato scardinato nella sua parte razionale dalla psilocibina, si apre alla percezione diretta di quello che c'è. E quello secondo me è, a parte che è bellissimo, perché sembrerebbe da questo video che in effetti l'esperienza più desiderabile sia quella mistica, quella di picco, che non è detto che sia la cosa che viene cercata dalla maggior parte delle persone. Però probabilmente io continuo a pensare che quando hanno deciso di chiamare i funghi magici, veramente la magia che in tante occasioni si sperimenta, sia questa sensazione che non si riesce a descrivere, proprio per questo viene detto magico, perché la magia non si sa come funziona, no? Se no sarebbe scienza o sarebbe qualcos'altro. E la magia in quel momento che si prova è proprio quello di essere qui e ora, cioè proprio completamente scollegati da qualsiasi pensiero, paura, conseguenza del passato o timori, anzi aspettative del futuro. Ecco, in quel momento sei qua e riesci a essere completamente qua, e in natura questo è facilitato, e poi col cuore aperto, perché tutto quello che c'è, quello che vedi è completamente bellissimo. Io la vedo come un'esperienza di risveglio, quindi loro dicono esperienza mistica. Forse per riportarla più vicino a noi, ecco, svegliarsi in quel momento, credo che sia la cosa più bella che può succedere a una persona, più ancora di fare un'esperienza mistica di connessione col divino, perché poi quell'esperienza così, come posso dire, su tanti, così tanti piani sopra la nostra esperienza quotidiana, è difficile riportarla nella vita di tutti i giorni. E invece quella esperienza di risveglio, quindi senza arrivare agli estremi di Terence McKenna, che è una cosa bellissima da un certo punto di vista, però è una sfida non da poco, quella esperienza di essere completamente qua e di permettersi di stare qua senza scappare in avanti, indietro, quello che devo fare, è un'esperienza che uno può richiamare in qualsiasi momento della vita. E questa cosa qua, cioè di riportare qualcosa di buono nella vita quotidiana dall'esperienza con i funghi, credo che sia la cosa che chiunque dovrebbe cercare se vuol fare un certo tipo di lavoro con i funghi. Poi ci sono i turisti delle sostanze che cercano il divertimento, e come tutti i divertimenti dopo un po' ti viene a noia e quindi devi cambiare, e quindi quelli faranno altre cose e si perderanno per strada, si esaurisce il loro rapporto con i funghi così, in maniera naturale. Invece chi vuole andare avanti dovrebbe avere continuamente, secondo me, l'obiettivo di portare nella vita di tutti i giorni quello che in qualche modo si comprende e si tira fuori da un'esperienza. E mi sembra che questo era anche un po' il messaggio del maestro Zen, ma anche del neuroscienziato. Certo. E se non ci sono domande, io continuo poi a... Ok, ne posso fare una veloce? No, diciamo, chi ha un po' di mestichezza con gli psichedelici, quindi questa classe di sostanze particolare che un po' si distingue rispetto alle altre con, diciamo, efficacia psicoattiva, sa che per larga parte la qualità dell'esperienza, di una buona esperienza, dipende da due concetti chiave, no? Quindi la preparazione e l'integrazione, quindi due momenti che non hanno veramente a che fare con l'esperienza reale, no? Diciamo in cui la sostanza è attiva, ma tutto quello che l'anticipa e tutto quello che ne segue. Infatti anche nel documentario a un certo punto anche Vania diceva: sì, non solo è importante vivere pienamente, ma anche integrare quello che uno ha in qualche modo vissuto in questo momento di picco, ma anche poi metterlo, come dire, in questo tessuto che è l'esperienza quotidiana, l'esistenza quotidiana. Quindi anche sulla base dei testi che, come dire, che hai diffuso, ti chiedo di parlare un po', ecco, di questi due momenti che anticipano e seguono poi l'esperienza psichedelica. Parlavo prima di che iniziasse la serata con alcune persone, e in particolare con uno mi diceva che l'idea di fare l'esperienza insieme ad altri è una cosa che lo frena molto, che lo disturba. E in realtà sì, è vero che è più difficile tenere insieme un gruppo di persone, ciascuna sotto l'effetto di una potente sostanza psichedelica. E, però è vero anche che c'è un modo di farlo. E sto dicendo questo perché quando poi finisce l'esperienza è fondamentale la libera condivisione del fare proprio condividere, se si vuole, con gli altri partecipanti un po' reso conto di che cosa si è provato, di che cosa si è esperito. E questa fase è importantissima in questa direzione, perché non è che il più delle volte non succede che io racconto quello che ho vissuto o le mie considerazioni e su questo capisco qualcosa di più, ma questa comprensione su quello che io ho vissuto nella stragrande maggioranza dei casi mi arriva ascoltando l'esperienza degli altri, e quindi trovo che il più potente strumento di supporto all'integrazione, integrazione è importante come parola, non è ho fatto un'esperienza difficile, devo guarire qualcosa, devo curare qualcosa, non c'è niente di sbagliato, non c'è niente di malato in quello che è successo, ci sono delle cose che non sono riuscito a capire, che non sono riuscito a portare dentro. Ecco, in questo senso l'integrazione avviene soprattutto in questo modo, la prima, proprio quando sei ancora, come posso dire, caldo dall'esperienza, parlare con altri, sfruttare ancora questa qualità, questa apertura che hai in quel momento, ecco lì l'abbiamo sperimentato ed è veramente incredibile. Un'altra cosa importante che avviene in quel momento è che è una comprensione che uno porta con sé nella vita di tutti i giorni ed è in grado di fare una grande differenza poi da quel momento andando avanti nella vita, facendo l'esperienza in un contesto cerimoniale, un po' come era nel film. Quello che viene evidente, l'ho visto su in Olanda e l'ho visto anche in altri contesti, ancora più recentemente, è che quando si è tutti seduti in cerchio, ci si rende conto che quella persona mi è simpatica, quell'altra mi è un po' disturbato, quello mi sta proprio sulle palle, quello... E tutti a un certo punto ti accorgi che sono dei riflessi di te. È una comprensione che... sì, lo riconosci e dici ed è normale, è proprio... viene fuori spontaneamente. E questo tipo di comprensione spesso non arriva neanche dopo averlo studiato. Gli altri sono parte di me, siamo tutti uniti, tutto è uno, eccetera, eccetera. Sono molte volte delle cose che uno ripete in qualche maniera perché è entrato in un certo flusso di informazioni, di libri, di letture, di anche un po' un certo stile di vita. Però in realtà quando fai l'esperienza diretta, che è esperienza diretta, e quando sei ancora in quella dimensione e sei tutti in cerchio e tutti erano insieme per fare quello stesso tipo di lavoro che fai tu, che è buttarsi dentro se stessi, riconoscere che gli altri sono degli aspetti di te è fenomenale, perché non è vero solo in quel momento, è vero per qualsiasi cosa. E qui nel film si vede molto bene, però è ancora una cosa intellettuale. Se avrete modo di fare esperienza dei funghi in un certo modo, in un contesto insieme ad altri, un rituale, una cerimonia, che serve a tenersi orientati in una certa direzione, non perché sia religioso, perché sia spirituale necessariamente, ma perché facciamo finta che sia solo utile per orientarsi integralmente in una certa direzione. E questa è una cosa che fa veramente una grossa differenza, cambia proprio la vita, e questa te la porti immediatamente nella vita di tutti i giorni. Poi è chiaro, torni a casa, torni nelle stesse dinamiche, ci sono tutta una serie di ancoraggi che tendono a riportarti dove eri prima. L'importante è saperlo, e su questo ci si può lavorare. Le regole per fare un percorso personale sono sempre uguali. Nel monastero Zen si vede molto chiaramente forza di volontà, autodisciplina, e questo è comunque sono due ingredienti assolutamente necessari per qualsiasi percorso. Quindi un'esperienza, si lascia passare un po' di tempo, poi c'è il richiamo, si sente la chiamata per rifare di nuovo, e un pezzo dopo l'altro cominci a mettere, a portare a casa tante cose che ti cambiano la vita da un certo momento in poi. Quindi l'integrazione è questo. Quello che mi interessava a me è più tipo magari una sorta di ricerca dei simboli, cioè ricerca di interpretazione dei simboli, un po' come l'interpretazione dei sogni classica. Ed è una cosa che un po', devo dire, cioè mi piacerebbe o conoscere qualcuno a cui parlare per cercare di dipanare questa cosa qua, al di là della ricerca dei miei amici con cui facciamo le esperienze, e che magari ne sa un po' di più, tipo, oppure provare, non so, un forum o qualcosa, cioè, in cui magari cambiare con qualcuno che ne sa anche magari di archetipi, oppure spiritualità, oppure chi lo sa, qualcosa. Se posso allacciarmi, perché è quello che hai detto tu anche, perché diciamo l'altare, o come tante altre cose che hanno a che fare con la fase di preparazione, quindi il fatto che uno allestisca uno spazio, come dire, che in qualche modo è arredato in un certo modo, fa sì che tutta questa, come dire, tutta questa serie di cose e oggetti possano parlare, perché in qualche modo continuano comunque a parlare anche nel momento in cui uno è aperto, se vogliamo. Anche quello, diciamo, che è un utilizzo di questi simboli, di questi oggetti, di queste cose, fatte in modo perché, come dire, facendo in modo che possano andare anche a suggestionare positivamente l'esperienza. Da lì io credo che poi ognuno si debba mettere in cammino, oltre che a cercare i propri maestri sicuramente, che possono fare un po' da traduttori, da mediatori rispetto a questa conoscenza del linguaggio dei simboli. Lo stesso Jodorowsky diceva, bisogna conoscere questo linguaggio che in qualche modo parla agli strati più profondi della tua psiche, però non credo che ci sia un traduttore universale, diciamo un Google Translate in questo, però anche il fatto che magari se uno è da solo come se la fa l'integrazione, il fatto che uno possa prendere un foglio bianco e iniziare a disegnare quello che in quel momento si sente disegnare, già quello potrebbe in qualche modo tirar fuori una qualche simbologia che uno non conosceva, no? Per cui da lì, di mistero in mistero, in realtà si può far strada, ecco. Lei diceva giustamente, la preparazione fatta in un certo modo è già un primo passo per l'integrazione. È come se tu disponessi un set di cose alle quali puoi attingere nel momento in cui sei nell'integrazione, perché vuoi capire delle cose specifiche. A parte che l'integrazione può iniziare anche mentre sei ancora nell'esperienza. McKenna lo diceva, ma anche nella mia esperienza, nell'esperienza di tanti, i funghi, se gli fai domande, ti rispondono. E quindi il saggio del caso potrebbe essere il fungo stesso. Avere delle domande è fondamentale, è il miglior modo secondo me per fare un'esperienza, e quindi mantieni chiara questa domanda, ma puoi anche usare dei modi rituali di gestire la formalizzazione di questa domanda, perché tu sia poi facilitato nel trovare la risposta. Chiedi e ti sarà dato. Se tu hai delle domande, le risposte le trovi, questo è poco ma sicuro. Ci può volere del tempo, dipende in che fase sei della vita, che tipo di domanda, quello che vuoi, però nello specifico di ho vissuto un'esperienza, sono successe delle cose, non ho il cerchio, disegnare, lavori simbolici, prendi una carta, estrai una carta dei tarocchi, puoi magari preparare un mazzo ristretto ai soli arcani maggiori, per esempio. Scrivilo su un biglietto, lo pieghi, leggi la domanda, la metti sotto il cuscino e ci dormi sopra. Sono tutti modi per, al di là del trovare riferimento esterno, psicologo, psicologo, psicologo, sono, rispondo alle domande, chi mi scrive, chi mi chiede, rispondo sempre. Le risposte le puoi trovare dentro di te, non come quello che dice che sono poi sbagliate, ovviamente. Però la domanda ha un grosso potere. È bello avere delle domande. Il problema di molti è che non hanno domande, che si lasciano vivere in genere, no? Non si chiedono le cose. E quindi non so se questo risponde un po' alla tua... Anche perché se vuoi una risposta la trovi. Sì, ma anche lavorare sulla definizione della domanda. Per esempio, io adoro Li Ching e nel corso degli anni l'ho usato sempre meno, perché mi sono reso conto sempre di più che, per la necessità di come funziona Li Ching, la formulazione corretta della domanda è fondamentale. E pensare quindi alla domanda ti mette nelle condizioni di trovare la risposta. Più delle volte ho smesso di fare la consultazione perché mi chiedevo una cosa e la risposta poi arrivava. Non è veggenza o cosa, un po' è che ho qualche anno di esperienza e di domande me ne sono fatte, di come lavorare sull'inconscio ho fatto una lunga esperienza per interessi personali, la programmazione neurolinguistica, l'ipnosi, e quei meccanismi sono sempre validi, sia che si tratti dell'esperienza psichedelica, ma che si tratti della vita di tutti i giorni, è uguale, cioè la vita è psichedelica, comunque cambiano solo i livelli di intensità, e quindi certe regole che hanno a che fare con la preparazione, col trovare le risposte, sono valide comunque sempre, non c'è una differenza di nessun tipo. No, la programmazione della serie, adesso ogni 15 del mese faccio un'esperienza... No, allora c'è un limite fisiologico che non puoi fare più frequentemente di una volta alla settimana l'esperienza, perché la tolleranza crea, insomma, ti limita un po'. Un giorno, in due mesi, ok. No, stai a quello che senti, sì, non è necessario programmare, ci sono dei periodi in cui sicuramente farai le esperienze più frequentemente. Ti dirai, ma non è che sto esagerando, cosa? No, perché te ne accorgi, e te ne fanno accorgere anche i funghi se stai esagerando. Se stai eccedendo, in qualche modo succedono delle cose che ti fanno rallentare, poco ma sicuro. E poi ci sono altri periodi in cui invece le esperienze si dilatano molto nel tempo, quindi se tu rimani in connessione col tuo sentire, che è comunque un esercizio utile, a prescindere dal fatto che sia per fare un'esperienza, no. Sì, la rigidità tendenzialmente la vedo come una limitazione in genere, ed è anche una limitazione nel mettersi a fare veramente il planning del... Sì. Tieni conto che i funghi, a differenza ad esempio dell'ayahuasca, sono più sensibili all'intensità, è direttamente legata alla quantità, e quindi... è chiaro che se tu hai organizzato di avere quella giornata libera ed è difficile, e quando è il momento ti senti un po' così, a parte che può essere timore, semplicemente una resistenza, perché non credo che ci sia nessuno che affronti a cuor leggero un'esperienza, specialmente se le quantità sono alte, però puoi sempre diminuire la quantità. E quindi, ed eventualmente è una cosa che fanno in Olanda, e in determinate situazioni non hai tante occasioni, bruciarsi quella giornata magari è anche complesso per tanti motivi, chi ha i bambini, le affidati, se considera entro un'ora, un quarto, un'ora e mezza eventualmente di poter aggiungere e sostenere un'esperienza che magari all'inizio avevi paura, ne hai presa poca ed è molto blanda, di poter fare una correzione in corso d'opera. Ecco, quello può essere un modo per rimediare. Prendo una quantità, c'è il rischio di dire ok, non mi sale, poi prendi ancora un po' che mi sale troppo, nel senso che scrivi nel libro questa roba. Il tempo che ho indicato, un'ora, un quarto, un'ora e mezzo, è quello dopo il quale sicuramente hai la percezione di quanto è salito l'effetto, perché entro un'ora e un quarto comunque sale, è difficile che passi più tempo, parlo di assunzione normale, se cominci a prendere le capsule e le mandi giù intere perché dici io i funghi, allora devi considerare che c'è un tempo di scioglimento, sì, e quindi i tempi si possono prolungare per questo motivo. Io consiglio Lemon Tech perché è veramente il modo migliore per velocizzare il tempo di percezione dell'effetto. Soprattutto togliere la nausea, che io dopo le prime due volte non riuscivo più a mangiarle perché proprio mi nauseava. La nausea, allora c'è un altro modo che è fare il tè. Io col limone mi sono risolto il problema. Sì, però alcuni possono avere comunque più... Alla fine si tratta pur sempre di un fungo crudo, anche se essiccato, e quindi non è la cosa più digeribile che uno può mangiare. Il tè, tra l'altro nel mio blog ho scritto l'articolo su come preparare un tè con i funghi, perché c'erano delle foto, dei disegni molto belli di Alice nel Paese delle Meraviglie, quelli disegnati dalla Disney, e allora ho detto ma facciamo questa cosa che sicuramente è in assoluto l'articolo più letto di tutti, ma tipo l'avranno letto 800.000 persone, cioè tra la versione italiana e quella inglese, e quindi te lo consiglio perché è stato utilizzato anche da una signora che ha fatto un'esperienza malata di tumore, quindi terminale, con tutte le ansie eccetera. L'obiettivo era di aiutarla a integrare, accettare, accogliere, è andata benissimo, e però lei, che è stata anche visitata da un oncologo che conosce i funghi, quindi insomma era tranquilla sulle sue condizioni di salute per poter fare l'esperienza, però la chemioterapia tende a dare facilmente nausea, e assumere i funghi anche con le Montec sarebbe stato un rischio da quel punto di vista. Ha preparato il tè, è stato fantastico, sì. Considera che hai un minimo di perdita ovviamente di dispersione, perché però almeno riesci a non mangiare la carne del fungo e assumere, è come un po' se fosse l'assunzione come nel film della psilocibina nella sua forma pura, e quindi molto più veloce la salita, molto più digeribile, molto più come posso dire, leggera, ecco, un'esperienza che ha sublimato la parte materica ed è solo l'informazione. Tornare, diciamo, con la psilocibina resiste. Allora, l'acqua che tu usi per fare l'infusione non è più a 100 gradi, ma è più vicina agli 80 o meno, perché devi aspettare comunque un 20-30 secondi da quando l'hai tolta dal fuoco, e la temperatura in quella fase scende, la parte più alta scende molto velocemente. E comunque la psilocibina è meno sensibile alla degradazione da temperatura. La psilocina è probabile che sia già ridotta moltissimo durante la fase di essiccazione, visto che è comunque un composto molto più instabile e che degrada più facilmente. La psilocibina invece, tant'è che anche Hoffman stesso non ha fatto le pastiglie del composto psicoattivo della psilocina, ma ha fatto pastiglie di psilocibina. Quanti di voi, scusate, chi ha mai fatto esperienza con i funghi? Chi ha fatto esperienza con i funghi? Quindi sono pochi quelli che non hanno mai avuto contatto con... Ok, scusate, avrei dovuto chiederlo prima, ma... Non ci sono, senza discriminare, senza discriminazioni. No, mushroom, sì, mushroom. No, magari sì, stiamo facendo incuriosire, chi lo sa. Il confine tra informazione e istigazione è molto labile, lo so bene, perché quanti mi hanno detto ah, ho letto il libro e poi grazie a te ho preso i funghi, e dico... per grazia o per disgrazia, però mi ringraziano, per cui sì, forse. Dai, anche il bad trip è un grande insegnamento. E non so se ci sono altre domande, però vorrei andare, ecco, vai Gio, prego. Il miele in particolare. Perché viene assorbito molto velocemente, quindi no, lì c'è rispondo solo sulla questione dello zucchero e poi scusami ti lascio proseguire la domanda, ma non è che lo zucchero abbassa l'effetto, è che il momento di difficoltà è causata da un eccesso di emotività, quindi è molto kama manas, come dicono in termini vedici, quindi pensiero ed emozione, ed è una roba che va fuori controllo. Lo zucchero, il miele in modo particolare, dà energia al corpo e ti riporta nel corpo. Il corpo per sua natura è qui e ora. Sì, e quindi riportarti nel corpo in qualche maniera ti aiuta a prendere le distanze da quello. È quello il meccanismo che funziona nel prendere lo zucchero o qualcosa del genere, non perché sia un antagonista dell'effetto della psilocibina. E quindi il miele in questo senso lo prenderesti all'inizio, ti dà un po' di energia, sì, non è l'ideale da quel punto di vista perché tende a mantenerti ancorato, però come mezzo di conservazione invece con il fungo secco, non col fungo umido, è sicuramente un'ottima soluzione, ed è particolarmente interessante per chi vuol fare ad esempio un microdosing diverso dal solito. Si fa il calcolo di quanto fungo mette, in quale quantità di miele, da una bella girata, e in qualche maniera, occhio e croce, prende una quantità e fa una sorta di microdosaggio senza prendere la capsula, e con un aspetto anche un po' goloso per alcuni, che ci sta. Quindi non è antagonista, cioè anche quando sono zucchero non vai a cancellare tutto l'effetto, ma semplicemente è un ritorno più alla concreta. Sì, tende un po' a portarti nel corpo e quindi a, come posso dire, tanto più che il fungo tende anche a fare questo tipo di movimento, avere delle salite e delle discese, tende a farti un attimo calmare, quello sicuramente. Però se sei ancora in una fascia di tempo in cui l'effetto può salire, risalirà senza dubbio. Quante volte è capitato di pensare sta già finendo, fatto in tempo a pensarlo ed era risalita immediatamente. Sì. Cosa è successa in varie circostanze, in base al fungo che prendeva, un effetto oscillatorio, e ce n'era uno che proprio non ti mollava mai, io me ne ricordo una volta, e c'era una cosa che ti prendeva, non si staccava proprio, quindi forse dipende anche dal tipo di fungo. Sì, ma dipende anche da tu come sei in quel momento, e quindi sì, perché psichedelico vuol dire manifestazione della psiche, e quindi sì, non sono tanto dell'idea che, cioè, allora, se Maria Sabina con la psilocibina ha detto che lo spirito del fungo era presente, è quella la chiave che fa la differenza. Poi è vero che ci sono tanti tipi di funghi e qualcuno può avere altre sostanze, la baocistina, la psilocina, la norba, e quindi magari un po' c'è anche un carattere leggermente diverso del fungo che è data dalla compresenza di percentuali variabili di altri componenti, però credo che sia prevalente assolutamente il tuo stato d'animo e il setting che determinano poi il tipo di esperienza, o quello che è successo magari prima. Io ho fatto un'esperienza molto impegnativa con una piccola quantità di funghi, perché la sera prima avevo visto un film impressionante, e guarda caso il tema del film, che era la follia, è stato un po' il tema della mia esperienza, ma proprio veramente non avrei mai immaginato che potesse essere così influente una condizione esterna emotiva verso un'esperienza sulle quali mi sono sempre sentito assolutamente a mio agio, massima sicurezza. Filmato nel setting, comunque, con cui lo fai, è stato un argomento di discussione anche tra di noi su chi farlo, con chi farlo. Ho fatto esperienze con persone che non conoscevamo e io ho avuto anche delle problematiche da questo punto di vista. E quindi farlo in una situazione del genere, quindi poi hanno passato qualche giorno insieme, hanno meditato. Si conoscevano bene, sì. Ok, no, infatti volevo chiedere questa cosa, perché è un gruppo affiatato. Che non conosco. È un rischio. È un rischio. Infatti, no, in quel caso, personalmente, se devo organizzare una cosa con persone che non conosco, faccio il colloquio con ciascuno e quindi faccio una selezione. E poi ci sono, come scrivo nel libro, poche regole che sono dei paletti che permettono di contenere comunque l'esperienza all'interno di un accordo condiviso, che non si va a chiacchierare col vicino pensando, cioè tu supponi che quello sia in difficoltà o che stia bene, cioè queste cose non si fanno, almeno all'inizio, e non si va in giro, cioè, cioè lo spazio, vai in bagno, sì, ma torni, si sta insieme, si è a portata di vista. Queste cose qui sono quelle che in qualche maniera permettono all'esperienza psichedelica di più persone di poter stare insieme in una forma armonica, perché altrimenti se non c'è un accordo condiviso prima, ognuno rischia veramente di diventare un caso di gestione difficile che poi contagia teoricamente anche gli altri e diventa un finimondo. Successo non è semplicissimo. No, le cose così estemporanee hanno un grosso fattore di rischio di esperienza poi difficile da gestire. Perché magari non ci pensi, poi ti trovi in quella situazione. Esperienze. Sì, sì, ma forse a volte te lo ricordi. Assumere una quantità di LSD, di funghi, ti rende molto più suggestionabile. Che è. Non è un problema, è una qualità che tu puoi decidere di usare intenzionalmente, perché se tu sai che in quel momento diventi più aperto alle suggestioni, allora puoi preparare l'ambiente in modo che quelle suggestioni lavorino nella direzione che tu vuoi. E quindi le cose fatte così a caso non vanno bene. L'esperienza che si ha tipica dopo i futuri viaggi che si fanno, no? Nel senso, il bad trip ti aiuta ad affrontare meglio, diciamo, ti dà l'esperienza per affrontare meglio le cose. Sì, future, no? Sì, se è integrato. Se non è integrato, no. Se non è integrato, personalmente ho fatto l'esperienza di inizi di attacco di panico con una microdose. E bastava dire la parola paura e mi saliva una roba che non io, cioè, mi guardavo e dicevo, ma com'è possibile? Sì, sì, perché quell'esperienza di 3,5 grammi, che per me era una dose test, veramente poco, perché ero abituato, normalmente per me i 5 o più grammi erano quelli con cui mi sento a mio agio, in grado di interagire con le persone. Dopo quell'esperienza è come se fosse... Cioè, come può essere un'esperienza non integrata? È come se tu avessi preso il sole in spiaggia il primo giorno di vacanza e ti sei scottato, ecco. Va curata la scottatura, altrimenti sei troppo sensibile al tocco per poterti riesporre al sole di nuovo. Quindi sì, se hai integrato l'esperienza, sicuramente hai delle risorse in più, quello senza dubbio, però quel lavoro va fatto e i modi sono tanti. Io personalmente vi faccio un esempio, come ho fatto, avevo queste situazioni di inizio di attacco di panico, sono andato da un agopuntore, gli ho raccontato che cosa è successo e quando sono tornato a casa dopo il trattamento io ero già, come posso dire, ben piazzato, mi sentivo fisicamente ed emotivamente su una base di appoggio molto più solida, perché ci sono dei punti del corpo che hanno a che fare con la paura, per esempio, e quindi inizi così e poi puoi fare tutta una serie di altre cose, l'integrazione la puoi fare con tantissimi strumenti. Ma in passato io ho avuto, diciamo, dei cattivi viaggi e ciò mi hanno permesso, diciamo, di gestire meglio le situazioni e affrontarle in altro, vedendole sotto altri punti di vista, sempre, senza mai perdere, diciamo, la connessione con il fungo, perché poi dov'è che si perde tutto? Quando tu perdi proprio il collegamento, quando tu non riesci a capire che hai assunto una sostanza e stai viaggiando e quindi lì ti scolleghi completamente con la realtà. Diciamo, approcciarti e vivere situazioni, diciamo, non bellissime, da quello che personalmente ho vissuto, mi hanno fatto imparare tantissime cose, mi hanno fatto affrontare i viaggi in un'altra maniera. Sì, però tu non sei uscito traumatizzato dall'esperienza difficile, nel senso che in qualche modo con l'esperienza successiva quella paura era stata in ogni caso gestita, elaborata, integrata, perché se ti rimane quel livello di paura, io so di gente che ha smesso completamente di prendere i funghi, per cui sarà stato un momento difficile, ma non è stata una roba che ti ha, come posso dire, danneggiato. Io l'ho voluto sempre sfidare, nel senso che ho voluto sempre, non pensavo di finire chissà dove, nel senso, alla fine è un viaggio dove conosci te stesso, viaggi con te stesso e conosci le persone con cui lo affronti. Sì, ecco, comunque la regola è che un viaggio difficile, sfidante, va integrato in qualche modo prima di fare un'altra esperienza. Poi sicuramente so di persone che vanno a cercare proprio l'esperienza difficile per un confronto con se stessi. Sì, sì. Però quelli che lo fanno, secondo me, hanno già abbastanza esperienza. Difficilmente uno che non ha esperienza si vuole lanciare nella ricerca di un viaggio. Va bene, allora andiamo in conclusione. Faccio un'ultima domanda. Scusatemi la voce, sono un po' raffreddata stasera. Allora, il termine, la parola psiconauta significa letteralmente navigatore della mente e dell'anima e rappresenta colui o colei che utilizza gli stati alterati di coscienza intenzionalmente indotti per investigare la propria mente, trovare risposta a questioni spirituali attraverso l'esperienza diretta, migliorare la propria situazione psicologica ed esistenziale e le prestazioni cognitive nella vita quotidiana. Secondo Jonathan Ott, la parola psiconauta sarebbe stata originariamente coniata dal filosofo tedesco Ernst Jünger. Secondo te possiamo considerare appunto questa forma di psiconautica all'interno di una delle tante possibili forme di disobbedienza civile? Perché, come sappiamo, insomma, stiamo parlando di sostanze che sono state da allora tabellate non in Svizzera ma in Italia, la Schedule 1, in questa tabella 1, che appunto ci rende anche impossibile studiarle, se non per rari eccezionali casi che forse qualche spiraglio si sta aprendo. Per cui, come dire, oltre all'utilizzo terapeutico, clinico e lo studio scientifico, citerei un po' a, come dire, a anche questi libri fondamentalmente, no? Cioè, possiamo considerarli all'interno di questa forma di disobbedienza civile, per cui uno si autorizza in qualche modo, si arrischia autorizzandosi, però a, come dire, ad addentrarsi in esperienze che sono appunto profondamente trasformative, come si è detto, e anche appunto a costo di andare, diciamo, controcorrente. Anche questo può essere un fattore sicuramente anche di timore, angosce, paure, perché d'altronde non è lecito farlo, no? Sì. Sì, è in corso una guerra alla coscienza, basta vedere quello che in qualche modo è sostenuto dal sistema in termini di quali sostanze è facilitato il consumo e sono tutte sostanze che aiutano a essere dipendenti, che in qualche maniera obnubliano la mente, la spengono, quindi lo zucchero e quindi l'alcol e quindi gli psicofarmaci e quindi sono talmente evidenti i vantaggi in tutta una serie di approcci terapeutici degli psichedelici rispetto ai farmaci tradizionali, ma così evidenti che perché non si fa, se l'interesse è aiutare le persone a star bene, una scelta chiara in quella direzione. Io non sono dell'idea che debbano essere utilizzati solo da un punto di vista medico, quindi che siano, ma anche qua lo sostenevano, quindi non solo per le persone che hanno malate, ma anche per le persone sane. E poi il confine è molto sottile tra malato e sano. Sì, infatti anche lui diceva se poi è possibile definire una persona sana, quindi sì, è sicuramente una cosa che il sistema teme. Infatti ho una riserva, non riesco ancora bene a inquadrare questo, tra virgolette, rinascimento psichedelico che nasce in America e che in Europa in questo momento in realtà ci sono anche dei movimenti reazionari. In Olanda, l'Olanda stessa, che è visto come il paese di Bengodi, in realtà sono in contatto con Giannesia per varie cose, eccetera, e loro stanno camminando sulle uova. Gli olandesi sono molto votati al business, cioè non toccate un olandese sui soldi, è come toccare un genovese sui soldi qui, per avere un riferimento più vicino a noi. E quindi che questi accettino e volontariamente limitino il proprio business perché hanno paura di quello che può succedere dà un po' il polso della situazione. Ecco, quello che sta succedendo in America da un punto di vista della guerra alla coscienza è un po' un controsenso. Sembra che in qualche maniera stiano favorendo l'espansione dell'uso di queste medicine e quindi un po' anche, come posso dire, un elemento di disturbo rispetto a un sistema che tende in qualche maniera a proteggersi e a mantenersi uguale. Però se consideriamo che in America business is business, più lì di tante altre parti nel mondo, il sospetto che ci sia dietro un'energia mercantilistica dietro a questo rinascimento, ecco, dire che il rinascimento è nato per un moto dello spirito, quello che sta nascendo adesso come rinascimento lo vedo più nascere da motivazioni economiche. Quindi non lo so, staremo a vedere cosa succederà. Per cui sì, è comunque una cosa che aiuta a liberarsi, e liberarsi normalmente avviene in contrapposizione a un sistema che tende invece a omologarti. Quindi sì, sono qua rassicurato dal fatto che cerco sempre di dare una prevalenza di informazione a quello che riguarda questi argomenti, non cerco di incentivare l'uso perché è inutile, non sono adatte a tutti, e quindi non temo più di essere arrestato, anche perché quelli che cercano in qualche maniera di fare un lavoro su se stessi, di sviluppare una coscienza, sono sempre una piccola parte rispetto alla totalità, e quindi forse anche si rendono conto che non potremmo mai essere così pericolosi. Si è visto cosa è successo in America con l'uso diffuso dell'LSD, non è che abbia creato maggiore risveglio, cioè tutti quelli che erano a fare gli hippie a un certo punto si sono dati una regolata, la maggior parte di quelli, e sono finiti a lavorare in banca, come diceva una canzone forse di Venditti, sei finito in banca pure tu. E quindi insomma, non credo che saremo mai pericolosi, non ci romperanno i coglioni più di tanto, e anche tutti i sequestri di cocaina, eroina, eccetera, eccetera, sono una piccola parte di quello che in realtà fa gioco del sistema. Si è visto negli Stati Uniti cosa succedeva con l'eroina che arrivava il più delle volte insieme alle salme dei soldati dentro ai sacchi di plastica. Questo è stato verificato, voluto dalla CIA, perché era un mezzo per in qualche maniera gestire le frange più trasgressive e più potenzialmente rivoluzionarie della popolazione. Grazie, comunque fai bene anche a fare informazione, buona informazione, proprio perché sono, come dire, sostanze in quanto illecite di cui ha senso in qualche modo essere pronti e preparati, ecco, nel momento in cui uno ne volesse poi fare esperienza. Ha senso esserne pronti e preparati. Andando all'estero, per esempio, dove certo, questo è possibile. Legalmente. Possiamo dirlo perché questa possibilità esiste realmente. Grazie Andrea. Grazie a voi che siete venuti qui domenica sera, grazie.